Roma Trastevere, 14 novembre 1973. Care Eleuterio, la casa che sentì il mio canto bambino spensierato oggi sente la mia voce singhiozzare mentre piango sulla spalla di mia sorella. Il nostro bisticcio dell'altro giorno mi ha lasciata con una sensazione di vuoto, proprio come quando mi capita di ascoltare Pippo Baudo. Guardo il distributore di benzina sotto casa e penso che la benzina è un petrolio che si è raffinato e ha preso la patente per andare in automobile. Penso anche che sei un cretino, Eleuterio, come dice mia sorella quando dice bene di te. Non si litiga per un piano regolatore, Eleuterio, sempre tua. Roma Farioli, 15 novembre 1973. Indescrivibile, sempre mia. Stabilito che tua sorella non dice, ma ruggisce. La casa che ha sentito il tuo canto bambino e oggi sente il tuo pianto è fortunata. Non ha sentito come me, incautamente inginocchiata al tuo fianco, quel terribile sì che sovrastò l'organo che suonava la marcia nuziale e che ha fatto di me un eterno Henri Charrière, che non riuscirà mai a raccontare la propria fuga da quella inverosimile Cayenne che si firma sempre tua. Hai ragione, non si deve litigare per un piano regolatore, si deve uccidere e poi esplodere in un festoso finalmente, Eleuterio. Ho scritto: ho visto per caso tua sorella entrare in un bar. Da quando in qua le foche prendono l'aperitivo? Roma Trastevere, 16 novembre 1973. Care Eleuterio, gattinaccio, voglio dire che pur essendo qualche volta ino, sei molto più spesso accio, come gatto smicizzato. Mia sorella ha letto la tua lettera senza che io me ne accorgessi, dato che l'ha aperta prima di me. Poi ha preso un vecchio cappello nero di mammina, ci ha applicato un delizioso velo nero e me lo ha regalato, dicendo che prima o poi ti incontrerà. C'è la luna piena e io penso che la luna piena è la O che Giotto ha disegnato per il cielo. E penso anche che sei uno stupido e che non ti aggiorni. Il piano regolatore va studiato e fatto rispettare per la tutela del verde e del paesaggio, sempre tua. Roma Farioli, 17 novembre 1973. Insostenibile, sempre mia. Quando non sei con me, io mi accorgo quanto noiosa sia la vita. Con te non mi succede, sei più noiosa tu. Ho fatto alzare un tendone nella camera degli ospiti e in terra ho fatto mettere tanta segatura. Non è proprio come un circo equestre, ma se tua sorella si adatta, la puoi anche invitare. Torna, anche perché una delle mie scarpe nere lucide è improvvisamente diventata gialla. Ciao, Eleuterio. Poi scritto: la portinaia ha notato che delle scarpe gialle che indossavo, una è diventata improvvisamente nera e lucida. Ma che accidenti hai combinato prima di andartene? Roma Farioli, 18 novembre 1973. Care Eleuterio, micione, sono di nuovo in questa casa in quanto sono venuta via da quell'altra per ritornare qui. Tu non ci sei ed è normale questo tuo non esserci, in quanto se ci fossi ci saresti. Ho rimesso la tua scarpa sinistra insieme a quella destra e stranamente sono tornate gialle anche quelle gialle, come logico che sia per un paio di scarpe gialle. Guardo con affetto le cose che mi sono familiari, quadri, sedie, soprammobili, tende. E io penso che la tenda alla finestra non è che una palpebra di stoffa con la quale chiudere l'occhio dell'impiccione della casa di fronte. E penso anche alla nostra ultima lite che avremmo potuto evitare se tu fossi stato sempre zitto. Ricordo tutti i particolari. Come sei entrato in casa mi hai subito aggredita. Hai la tosse? Caffone, non sono io che abbaio con la tosse, è il cagnolino che abbaia senza tosse. Cagnolino, ma sei sicura che non sia un leone? E poi chi ti autorizza a prendere un randagio in casa? Questo non è un randaggio, è di mia sorellina. Ah, volevo dire che somigliava a qualcuno di casa tua. E che cosa ci dobbiamo fare con questo ignobile parente vostro? Lo dobbiamo tenere qui per qualche giorno. Quella è la cuccia, portala nel tuo studio. Cosa? Nel tuo studio, la cuccia. Solo a condizioni che dentro ci sia tua sorella con la museruola e la catena. Eleuterio, se non la smetti con mia sorella, io aizzo il cane. Non sei mai originale. Hai già aizzato contro di me tua sorella. Il cane mi fa ridere. Mettilo in terrazza con la sua cuccia maledetta. In terrazza non si può. Ho fatto un piano regolatore che mia sorella ha approvato. La cuccia in terrazza deturperebbe il paesaggio. Tua sorella, ma perché uno che non ha fatto mai niente di male si deve improvvisamente ritrovare cognato di un errore di tuo padre? Eleuterio, piantala con la mia famiglia. Quando dici tribù, forse ti avvicini di più alla verità. Non essere offensivo. D'altra parte, la cuccia non può stare che nel tuo studio. Il soggiorno è classificato H2 e non ci si può coprire più superficie di quella già coperta. In cucina non è igienico. In stanza da letto non ce lo posso mettere perché il cagnolino non sopporta gli estranei e quindi tu dovresti andartene. Non ci resta che il tuo studio. Io non voglio antenati di tua sorella nel mio studio. Eleuterio, ho l'impressione che tu non abbia simpatia per mia sorella. È la prima volta che riesci ad afferrare il senso di un discorso. Brava! Leva quella bestiaccia di tua sorella. In che senso, Eleuterio? Nel senso più offensivo. Ma perché le colpe dei genitori non ricadono sui figli invece che sui generi? Leva quel cagnaccio o faccio un safari. Eleuterio, posa la doppietta. Guarda che se posa la doppietta prende il cannone. Eleuterio. Porta via quel cane. Puzzo via, cagnaccio. Io, io, Eleuterio, io. Non infierire sulla povera bestiola o me ne torno da mia sorella. Eleuterio, metti giù quel fucile. Ah! Ai, ai, si è avventato. Ai, ai, ai, ai, ai. Sei brutto, fatti male le bestie. Io non ci posso vivere con te. Torno dalla mia sorellina. Ricordo tutto perfettamente, ma quando tornerai farò generosamente finta di niente. Ciao. Ciao, Eleuterio. Se ti devi lavare, vai pure in cucina. In bagno ho dovuto sistemare le anatre e i pesci di mia sorella. Sai, l'ecologia è un fatto che...